picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. La 32ª puntata di Picchi di Frequenza apre con la consueta rassegna stampa, prosegue con un intenso incontro con Cecco Bellosi e i suoi piedi nell'acqua, i suoi racconti del Triangolo Lariano, per poi proseguire con qualche voce dal Mello Blocco 2016. Questa è Picchi di Frequenza. Nella vita di un arrampicatore ci sono giorni importanti e giorni meno importanti. Almeno per l'osservatore esterno sembra essere così. Ma quanti si chiedono cosa vuol dire importante? Importante per chi osserva o per chi fa? O forse un assieme di queste due prospettive? Di solito importante vuol dire fare qualcosa che trova riconoscimento da parte di altri. La storia dell'alpinismo è stata scritta con questo criterio perché è stata scritta da osservatori. Il titolo è Tempi moderni, il sottotitolo è Una storia scritta da chi ha fatto la storia. I testi sono di Heinz Mariacher ed è questo l'articolo che apre il nuovo numero di App, Annuario di Alpinismo Europeo, edito da Versante Sud, edizione 2016. Un numero ricchissimo perché siamo sempre sulle 200 pagine, non soltanto di bei testi ma anche di grandi e belle foto che fanno un qualcosa di più. Un qualcosa di più di un semplice commento al susseguirsi di relazioni, racconti, ricordi, esperienze di alta quota. Si parla di boulder tanto, si parla di nuove vie e di quelli che sono state insomma le scalate più importanti della stagione alle spalle, ma c'è anche un bell'articolo e partiamo da pagina 60 nella rubrica Tiro Mitico dal titolo Il Mattino dei Maghi. I testi sono di Manolo e vi leggo anche qui l'introduzione. Quei muri levigati di roccia saldissima erano avari di fessuri. I chiodi non entravano, le vie diventavano man mano sempre più difficili e pericolose. Quella specie di notte, lunga quasi 2 anni, si rischiarò solo all'alba del Mattino dei Maghi. Siamo nel 1981. Manolo racconta così le sue estenuanti salite sulle pareti del Totoga, quintessenza della cattiveria di una montagna dolomitica. Insomma, questo numero di App non ve lo dovete perdere, non vi dovete neanche perdere però l'appuntamento del 22-25 luglio, perché l'APE di Milano convoca tutto lo sciame, quindi a partire da Roma, Brescia, Lecco, con un invito aperto ad alpinismo Molotov, alpinismo orizzontale, il collettivo alpino zapatista di Genova, insomma chi vorrà essere con noi, la rivista Nunatak che esce in questi giorni con un nuovo numero, insomma tutta quella comunità di esperienze, ma anche di singoli individui semplicemente che abbiamo avuto occasione di conoscere in questi anni e che si troverà appunto nel terzo weekend del mese di luglio sulle Alpi Apuane. Ne avevamo accennato la scorsa settimana perché proprio in questo fine settimana ci saranno prima gli Stati Generali, quindi una escursione, un trekking nella nocività delle Cave di Marmo. Torniamo sul luogo del misfatto, quindi in collaborazione, così in saldatura col comitato Salviamo le Apuane, avremo occasione appunto a luglio di incontrarci tutti nuovamente, come già fatto la scorsa estate ai Piani Resinelli nei pressi di Ballabio. Chi ci ospita sarà l'Ostello delle Apuane, siamo dalle parti di Forno Volasco. Per tutte le prossime informazioni arriveranno insomma nelle settimane che seguono, però se volete scrivermi per avere qualche dritta per cominciare a organizzarvi, fatelo, perché volentieri sarà un'occasione così popolare di incontro e perché no un'occasione anche per avere un piccolo live di questa nostra trasmissione di Picchi di Frequenza. Ora un attimo di musica, poi entriamo nel vivo della puntata con l'incontro con Cecco Bellosi. Thank you. siamo al telefono quest'oggi con Cecco Bellosi, classe 1948 di Isola Comacina, una lunga storia politica, ma una storia anche che ha i piedi ben piantati nell'acqua e lo sguardo invece che guarda ai crinali e al cielo. E con i piedi nell'acqua è anche il titolo del suo libro per Milio Edizioni. È un'avventura che in qualche misura ci sembra di conoscere, visto che in occasione delle tante gite dell'Ape Milano, dalla Val Cavarnia alla zona di Menaggio, insomma un po' tutto il triangolo lariano è meta prediletta delle escursioni, dei trekking che ci vedono insomma ogni due weekend andare a conoscere un po' le Prealpi Lombarde. Di che cosa parla questo libro? Non è un libro di storia, però si può dire che sia un libro di storie. Direi proprio di sì, sì, è un libro di storie, un libro di storie che raccontano di personaggi che poi alla fine, quando li ho riguardati rileggendo il libro, mi sono chiesto qual è il filo comune tra di loro, e che erano, sono tutti degli irregolari. E probabilmente questa è sempre la cosa che mi ha appassionato di loro, quindi dai grandi chef di Argenio e contrabbandieri del mio paese, per arrivare su fino ad Ongo e alle zone di cui tu parlavi, e quindi a quei rifugi anche tipo il Giovo, Somma Fiume e così via, che erano all'epoca delle piccole caserme della Guardia di Finanza e dove appunto i contrabbandieri passavano di qua e di là del confine con le sigarette. Io sono cresciuto in particolare in questo paese colonno, che faceva parte del comune di Isola Comacina e che era considerata la capitale dei contrabbandieri, quindi sono cresciuto in una epopea fondamentalmente, ed era un'epopea di una illegalità condivisa, di una comunità che condivideva i valori dello stare insieme, e quindi i miei occhi oggi guardano quel periodo con molto rimpianto. C'è un mondo, uno dei tanti mondi che si affacciano sui due rami del lago, è quello raccontato nei libri, nella narrativa, penso in particolare a Vitali, evidentemente. Le tue storie invece sono storie come dire, di import-export, di irregolari, di personaggi, come dire, minori forse rispetto alla grande storia, quella maiuscola, ma che invece sono fortemente situati nel loro luogo, nel loro territorio, che in qualche misura determinano anche uno stile. È una storia del Novecento in qualche modo, oppure è una storia del rapporto col territorio? Qual è stata un po' la chiave interpretativa che tiene insieme i tuoi capitoli? Ma è una storia del Novecento, ma è anche una storia senza tempo per alcuni aspetti. Teniamo conto che è una storia del Novecento perché a un certo punto si parla anche della resistenza dei partigiani, appunto, tra l'altro morti il 24 aprile del 1945 sulla zona dei fascisti. Però è una storia, secondo me, senza tempo, come sono senza tempo le storie di confine. Cioè, a differenza dell'altro ramo del lago di Como, quello insomma più famoso per motivi narrativi, questa è la nostra zona, è una zona di confine. Il confine è un limite da una parte, ma anche una grande ricchezza, mi verrebbe da dire, dall'altra, perché ci ha abituato da secoli ad avere rapporti con l'altro. Pensavo prima a una cosa che oggi può sembrare assurda: negli anni 50-60, oltre ad esserci questa grande comunità che passava di là e di qua dal confine, che era quella degli spalloni, dei contrabbandieri, ad esempio tutti gli anni nei nostri paesi arrivavano gli zingari, gli stroleg, ma era una cosa normale, diventavano per la settimana, i 15 giorni in cui si fermavano, anche loro una parte della comunità. Ecco, io credo che le zone di confine abbiano un po' questo aspetto. Ogni tanto si incattiviscono, come oggi il caso della Svizzera nei nostri confronti, come da parte dei nostri confronti, cioè da parte nostra nei confronti dei tedeschi, ma poi riescono sempre a trovare un po' il bandolo della matassa. E secondo me questa è una caratteristica proprio della gente di confine. Infatti io ho trovato molta affinità con il discorso che ad esempio in Poillenana viene fatto da Wuming sulla zona del confine slavo, di molto più drammatica, però c'è questo aspetto di una comunicazione tra diversi che da altre parti è molto più difficile. Nella tua storia editoriale, oltre che politica, il tema delle rivoluzioni incompiute, eppure necessarie, eppure importanti, è un filo conduttore, un tema ricorrente. Qualche anno fa pubblicasti per Nodo Libri già un libro sul tema dei contrabbandieri. Dobbiamo aspettarci un sequel, una sorta di chiusura di questa ipotetica trilogia sul tema del confine, del contrabbando. Che cosa ci possiamo aspettare da una tua prossima pubblicazione? Ma guarda, io ho parlato di contrabbando nel 95 appunto con il paese dei contrabbandieri e un po' anche un po' con i piedi nell'acqua, ma io credo che oggi la cosa più importante sia riscoprire che cosa è stata, ma sotto forma sempre della narrazione, non di un saggio, che cosa è stata la resistenza dalle nostre parti. Allora qui da noi, come dicevi giustamente tu, sono sempre stati posti di piccole storie, piccole, molto intriganti storie, ma a un certo punto è passata la storia con la S maiuscola e un pugno di partigiani. Guarda, visto che proprio voi, cioè tu fai parte di questa associazione di escursionisti, un pugno di partigiani del distaccamento Puecker della 52esima Garibaldi cattura Mussolini e gestisce tutti quei giorni. Erano non più di 20 persone, ed erano 20 persone che ridotte a 13 o 14 a gennaio del 1945 avevano fatto un'epica impresa tra l'avventura e credo anche l'impresa dal punto di vista alpinistico, andando a piedi 1 metro o 2 metri di neve dalla Val Bodengo fino a Madesimo, dove ai primi di gennaio del 1945 c'erano i signori a sciare, cioè quelli che aspettavano la fine della guerra per tornare a comandare come avevano fatto prima. E passano questi signori per la resistenza. 5 giorni in mezzo a una bufera, in mezzo a una bufera di neve, camminando costantemente al di sopra dei 1000 metri e con personaggi anche storici, perché tra di loro, ad esempio, c'era Giovanni Pirelli, detto Pioppo. Quindi io credo che poi alla fine. Io sono cresciuto dentro l'epopea del contrabbando, ma sono cresciuto con questi partigiani, cioè, ad esempio il Tom, che era fratello del Barba, che rimane per 3 giorni nel torrente albano ferito prima di essere portato in Svizzera. Insomma, credo che di dovere adesso uno sguardo più, come dire, più forte su quello che è stata la resistenza e purtroppo la resistenza tradita, perché la storia d'Italia di tutti questi anni è la storia di chi ha vinto la resistenza ma poi ha perso il dopoguerra e ci ha costretto a una democrazia condizionata e anche pesantemente inquinata e poi a tutto quello che è accaduto dopo. Io credo che a questi uomini noi dobbiamo tantissimo. Assolutamente, tra l'altro prima accentavi la 52esima Garibaldi che dopo l'esperienza della banda Pisacane vede proprio alcuni dei partigiani dell'Ape, ricordo in particolare Pierino Vitali che purtroppo perirà prima di vedere i giorni del 45, ma proprio fra i suoi membri più attivi. Con questo auspicio spero che insomma ci sia occasione non soltanto di ascoltare nuovamente più approfonditamente le tue storie, ma proprio di scambiare anche con le tante vicende di resistenza, e non parlo soltanto di quella maiuscola successiva all'8 settembre, ma di quelle che sin dai primi anni 20 in qualche misura collegano anche un po' la nostra storia a quelle che tu racconti, storie dei resistenti della prima ora, di chi accompagnava oltre il confine chi doveva togliersi di torno per un po', di chi accompagnava nei congressi e nelle riunioni clandestine per baite le organizzazioni della sinistra sin dai primordi del ventennio. Ti ringrazio per essere assolutamente se mi è permesso solo un'ultima considerazione, tieni conto che uno dei personaggi che hanno caratterizzato quel periodo in maniera molto molto forte è stato questo mito, nel cui mito appunto io sono cresciuto, che era questo grandissimo contrabbandiere che si chiamava il Ment e che era anche un antifascista, per cui poi è morto dopo le torture nelle carceri fasciste, quindi negli anni 30, e quindi tutte cioè le cose che tu hai detto adesso sono di una palpabilità, di una qualità molto forte. Cioè, io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia in questi minuti a disposizione, ti rinnovo l'invito fatto anche in privato a organizzarci per una prossima presentazione qui al Piano Terra, alla sede dell'Ape di Milano, e a risentirci insomma volentieri in occasione di una prossima riflessione pubblica. A lungo. D'accordo? Ciao, grazie a te. Grazie, ciao. Hätte sein, du war ein Schienischka, die kurze Sitzhauer da. Hätte wege du, der Jörna, körre rein, war fadiga, ab und zu dir giù, e lontana se ne va. Da vita così, e da stiba per nu. E a spieta che chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiava, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. So fa scura far la luna e te viesta passa. Amato dai suoi fan, odiato dai suoi detrattori, il Mello Blocco è da oltre 10 anni l'appuntamento di riferimento per i boulderisti di tutto il mondo che si incontrano per una settimana tra la Val Masino e la Val di Mello, vallate segnate dall'assenza di alte vette, di speroni infiniti e invece da pareti di assoluta bellezza. In un paesaggio incontaminato e, come nell'occasione della Val Codera che abbiamo conosciuto nelle scorse settimane, non solcato da vie carrozzabili, quello della Val di Mello è e del Mello Blocco è un appuntamento che abbiamo voluto farci raccontare non da un professionista del settore, un veterano, un agonista, ma da un amico dell'Ape di Milano che per passione ha pensato di trasferirsi lì campeggiando qualche giorno e quindi abbiamo chiesto a lui un resoconto così di questa settimana di condivisione in Val di Mello. Siamo al telefono quest'oggi con Massimiliano dell'Ape di Milano, che ha partecipato all'ultima edizione del Mello Blocco, appuntamento in Val di Mello storico dei rocciatori, dei boulderisti, insomma di chi ama l'arrampicata libera, e che ci racconta in qualche minuto quella che è stata la sua esperienza, l'atmosfera che si respirava, insomma com'era questo Mello Blocco. Sì, ciao. Direi che l'atmosfera era particolarmente piacevole. Innanzitutto il primo dato è che c'era un meraviglioso sole, cosa che ahimè al Mello Blocco spesso manca. Credo ci siano state negli anni forse 2 o 3 edizioni in cui tutti i giorni del Mello Blocco insomma il sole splendeva, per cui si respirava un'ottima atmosfera, c'erano un sacco di persone, un sacco di boulderisti appunto che si sfidavano a tutti i vari blocchi. Atmosfera piacevole, tempo molto, molto piacevole, ovviamente la competizione, mettiamola così, sui blocchi era particolarmente serrata. Alcuni di noi, diciamo che noi non abbiamo partecipato come atleti al Mello Blocco, ma abbiamo semplicemente fatto da contorno. Alcuni di noi hanno fatto i giudici ai blocchi, tra l'altro messi su dei blocchi durissimi, per cui anche diciamo i vari tentativi sono stati davvero pochi, però insomma si potevano ammirare delle prestazioni abbastanza significative su blocchi molto duri che andavano dal 7C fino all'8B, insomma tutti i blocchi tracciati quasi tutti al buon Pede Ferri, che è insomma un po' il guru del Mello Blocco e anche il guru della Val di Mello stessa. Abbiamo piacevolmente visto atleti insomma sfidarsi su questi blocchi durissimi, tanto quanto abbiamo invece deciso anche come gruppo, sia legati alcuni legati ad Ape Milano, altri legati all'Acciaieria Zama, abbiamo deciso anche di compiere tutta una serie di aldi vie che in Val di Mello durante i giorni del Mello Blocco sono abbastanza sgombre, perché tutti sono più impegnati ai sassi, insomma ai boulder più in basso. Siamo riusciti a chiudere delle vie molto belle, anche abbastanza storiche, ad esempio l'Alba del Nirvana o Stomaco Preso, insomma vie anche non troppo difficili, però insomma sicuramente divertenti e ingaggianti per tutti. Poi con un sole appunto meraviglioso, è stata davvero una bella esperienza. La valle in quei giorni si riempie di boulderisti, si assistima anche di spettatori e insomma la valle è piena anche di persone che si affacciano, perlomeno che vogliono attraversare la valle, la montagna in generale. In quei giorni insomma è sicuramente una visione piacevole. In alta valle le vie erano sgombre, per cui siamo riusciti a praticarle con semplicità, ma anche con insomma senza avere la coda che ahimè a volte si trova proprio per la bellezza delle vie, insomma, che sono abbastanza famose. Quindi sicuramente un'ottima esperienza e l'invito consentito a tutti, comunque al di là anche del Melo Blocco, di frequentare e di, insomma, di godersi la Val di Mello, soprattutto per l'arrampicata. Ci sono arrampicate di ogni livello, dalle più semplici, sicuramente l'arrampicata in aderenza non è semplice ma è molto mentale, però insomma ci sono anche dei gradi semplici per poi arrivare invece a quelli un pochino più complicati, insomma, in cui, come dice ad esempio una via, stomaco peloso, ci vuole un po' di pelo sullo stomaco per poterle affrontare. Anche la 32esima puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito a idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, quel che vi passa per la mente, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @abuzzo3 o quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. L'idea, come di consueto, è quella che possiate ascoltare il nostro programma in FM ogni venerdì alle ore 20, ma anche che possiate recuperarne l'archivio pubblico e ci diate una mano, insomma, a farlo conoscere a partire appunto dall'account aperto su Spreaker, dove trovate tutte le oltre 30 puntate di Picchi. Noi, come di consueto, ci risentiamo invece venerdì prossimo alle 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.